Today's Dhamma talk is going to be a new Dhamma talk. A new Dhamma talk that I've never given here before. No. And it won't have a title so far. Allora, il Dhamma talk di stasera sarà un Dhamma talk nuovo che non ho mai dato prima, qui, a Fian dei Ciliegi, e fino ad ora non ha ancora un titolo. Cioè, per adesso non ha ancora un titolo. The title will be given at the end. Il titolo sarà dato alla fine. Now, please, the first thing will be a statement and then a couple of questions. And so, then kindly listen very carefully to the statement. Allora, inizierò con un'affermazione a cui seguiranno due domande. Per favore, seguite attentamente l'affermazione. Observing and describing structures of experience as they present themselves to consciousness. Quindi osservare e descrivere le strutture dell'esperienza così come si presentano alla coscienza. Without recourse to theory, senza ricorrere alla teoria, to deduction, alla deduzione, or assumption, o a una una supposizione from other disciplines such as the natural sciences. Una supposizione presa da altre discipline come per esempio le scienze naturali. So what is this? Allora, what do we call this and what does this apply to? Quindi che cos'è? Come la chiamiamo questa cosa e a cosa si riferisce? Sati. Mindfulness. Quindi la consapevolezza, dice Victor, sati. Yes. And what else? Qualcos'altro? Vipassana. Vipassana, yes. Vipassana. And? All the seven factors. Pardon? All the seven factors. All the seven factors of enlightenment. Tutti i sette fattori dell'illuminazione, dice Marco. Okay. And so, in terms of a part of a teaching that is being taught at university, how would you classify it? Però se doveste pensare a un insegnamento così come viene dato all'università, per esempio, come lo classifichereste? Yes. Reflectivity. Che in italiano cos'è riflessività? And this reflectivity occurs in which field? Quindi in che campo quindi avviene questa riflessività? Sociology. Not so bad. So. In sociologia, insomma. So now. The answers that have come from your side, especially the first few, were right on. No? Le risposte che sono arrivate da voi, soprattutto le prime, erano proprio adeguate. Erano adeguate. So, the definition or the statement given at the beginning, the entire statement reads as follows, namely. Phenomenology, 20th century philosophical movement dedicated to describing the structures of experience as they present themselves to consciousness. Ecco allora la definizione esatta, l'affermazione completa precedente è la definizione del termine fenomenologia, cioè è un movimento filosofico moderno che si occupa della osservazione della struttura dell'esperienza così come appare alla coscienza. And without recourse to theory, deduction or assumption from other disciplines such as natural sciences. Senza far ricorso o senza teorie o supposizioni prese da altre discipline nell'ambito delle scienze naturali. So, it's a definition of phenomenology, which is a part or a branch of modern 20th century philosophy. Quindi questa è la definizione di fenomenologia, che è un aspetto, un ramo della filosofia moderna del XX secolo. And so, do you have any idea who founded this kind of school? Husserl. Husserl, yes, okay, sorry. Sì, un'idea di chi ha fondato questa scuola? E, qualcuno ha detto? Husserl. Edmund Husserl. Edmund Husserl. And so this is. But Seidel, I have to disagree with you. I think the modern science approaches its work in exactly the same way, whether it's physics or any of the sciences. The word data means given. Yes. And you always rely for your observations on what's given. In your experiment, in the scientific method. So it doesn't just apply to phenomenology, it seems to me. No, oh, phenomenology as certain as such has had a strong influence on other sciences such as sociology, such as psychology, and others. No. L'obiezione di Gem era riguardo al fatto che la fenomenologia, che qualsiasi esperienza comunque, scusate, riprendo, qualsiasi scienza moderna si affida a dei dati comunque per spiegare l'esperienza. E quindi secondo lui la fenomenologia è una cosa un pochino più vasta, va oltre questa assunzione di dati dall'esperienza, dei dati scientifici. Allora Bante ha spiegato che fenomenologia si riferisce anche ad altre scienze, come per esempio la sociologia, la psicologia, la religione, la filosofia. The main point here is, without recourse to any theories or hypotheses. So there's just a bare observation of what is. Quindi qui il punto è che non si fa ricorso a nessuna teoria, a nessuna ipotesi, e ci si riferisce semplicemente all'esperienza pura così come si presenta. Scusate, l'osservazione dell'esperienza così come si presenta. No. A phenomenon is something, an effect or an event in nature or in society that is not fully understood. Quindi un fenomeno è un fatto o un evento nella società. Sorry, in society. That is not fully understood. Yes, you said in society and in nature. In nature, in natura o in società, quindi un fenomeno è, riprendo, un oggetto in natura o in società che non è pienamente conosciuto. And in the context of Vipassana meditation, you will have noticed that the things that we observe are being referred to as objects, as formations, as phenomena. E vi sarete accorti che nella meditazione di Vipassana ciò che noi osserviamo viene ci si riferisce a ciò che osserviamo con i termini di oggetto o di fenomeno or formation. O di formazione. Okay. Now, what led me to this talk was several years ago, and I think it was in Barre, Massachusetts, during a retreat, when reading a modern magazine, partly under Buddhist influence, this term, I came across this term, phenomenology. And so that struck a chord right there. But I didn't, back then, didn't exactly know what was meant by it. Allora, quello che mi ha portato a preparare un discorso sulla fenomenologia è un episodio che mi è accaduto quando ho fatto un ritiro a Barre, Massachusetts, e ho trovato un libro, anzi una rivista di ispirazione buddista in cui appariva questo termine, fenomenologia, e quando l'ho letto mi ha colpito in qualche modo, anche se allora non sapevo bene di cosa si trattasse. Back in Lumbini last winter, there was an occasion or an opportunity to kind of explore this topic further, and then I discovered at least certain similarities with the Pasna meditation. Poi ho avuto occasione a Lumbini l'inverno scorso di esplorare un po', di analizzare un po' meglio questo argomento, e ho visto che c'erano delle somiglianze con la meditazione di Vipassana. Now, Edmund Husserl was the founder of this phenomenology, and some of his well-known students are Martin Heidegger and also Jean-Paul Sartre and a Frenchman named Marteau. Allora, Edmund Husserl, il fondatore della fenomenologia, e tra i suoi studenti più famosi ci sono Heidegger, Sartre e il francese See, when we undertake Vipassana meditation, we just observe whatever predominant object is there, and then we try to do so without any theory in the head, without using any concepts. Vedete, quando noi osserviamo un fenomeno durante la meditazione di Vipassana, noi osserviamo quello che c'è in quel momento senza utilizzare delle teorie nella nostra testa o dei concetti. And the Venerasadu Pandita of Burma likes to refer to Vipassana meditation as a form of self-research. E il venerabile Upandita si riferisce alla meditazione di Vipassana come ad un'autoricerca, una ricerca su se stessi. And he keeps stressing the point that we observe without using any high-tech tools. E continua a sottolineare il punto che noi osserviamo senza utilizzare alcuno strumento tecnologico. Now, the Buddha, of course, was the promoter of, founder and promoter of Vipassana meditation, or Satipatthana meditation, and he developed it to outstanding heights. Il Buddha ovviamente è stato il fondatore, il promotore della meditazione Vipassana, e l'ha sviluppato fino a dei livelli altissimi, straordinari. And so, for him and his disciples, this bare observation of predominant objects in the end led to the attainment of full liberation. Per lui e per i suoi discepoli questa pura osservazione dell'esperienza e dei fenomeni li ha portati ad ottenere la piena liberazione, a raggiungere la piena liberazione. Now, as for Husserl, one of the meditators, a Canadian meditator in Lumbini, pointed out, Husserl became an eternalist and Heidegger became a nihilist. Allora, un meditante di Lumbini, canadese, ha ricordato il fatto che Husserl è diventato un eternalista e Heidegger è diventato un nichilista. And for Jean-Paul Sartre, he became a materialist, a Marxist. E Jean-Paul Sartre è diventato un materialista, un marxista. And just for the sake of completion, Venerable Jnanapunika Thera, in his Abhidhamma studies, says that Satipatthana is neither phenomenology nor ontology. Allora, Jnanapunika Thera, nei suoi testi sull'Abhidhamma, ha indicato che la meditazione di Vipassana non è né, phenomenologica né ontologica. Yes, right. Now, to give you an example for the importance of a careful observation and description of the phenomena that are truly occurring. Allora, per darvi un esempio di un'osservazione precisa e attenta dei fenomeni che effettivamente stanno accadendo. Now, let's say a person is sick. Allora, immaginiamo che una persona sia malata. And seriously sick, and then finally goes and sees a physician. Allora, è molto malata e alla fine va a vedere, a farsi visitare da un medico. And so, then this patient describes his or her symptoms to the physician, such as, well, every 2 days I'm suffering from tremendous fever, followed by or accompanied by sweating, and then followed by a period of tremendous chills. Allora andrà dal medico, spiegherà i suoi sintomi, per esempio dirà ogni 2 giorni ho delle febbri molto alte, e queste febbri poi sono seguite da degli improvvisi raffreddamenti, dei tremori. Okay. And then on top of that there's a general state of weakness. E oltre a questo c'è un senso generale di debolezza. And then the patient goes on to say that according to my internet studies this must be dengue fever. Please prescribe me some medicine for dengue fever. Dengue fever is a totally different disease. Allora lei dice, questo paziente dice al medico, secondo i miei studi su internet tutti questi sintomi praticamente rivelano la presenza di una febbre dengue. È una cosa completamente diversa. Yeah, when in fact the symptoms are more likely to be symptoms of malaria. Mentre tutti i sintomi invece sembrano indicare la presenza della malaria. So, and in this case, the patient that is mixing a pure observation of the symptoms with his or her conclusions, beliefs about the illness he or she is suffering from. Quindi in questo caso il paziente sta confondendo i suoi sintomi con le sue idee, le sue credenze rispetto alla malattia che crede di avere. And so, of course, for a physician who has to deal with such a report that is mixed with evaluations and certain pre-conclusions, it's somewhat difficult. Allora, per un medico che sente questi sintomi che sono però mischiati insieme a delle idee errate o comunque dei pregiudizi, delle presupposizioni, allora sarà molto difficile curare il paziente. No. Let's take it one step further. A swaying movement occurs, and when it first occurs, we don't think of it highly. What is a swaying movement? Nothing important. Allora, andiamo un pochino più in là come esempi. Immaginiamo che c'è un movimento, un dondolio, diciamo, un ondeggiamento del corpo. E lì per lì non ci sembra una cosa importante, si sembra irrilevante. Now, as the same swaying movement of the body keeps occurring over and over again, eventually one starts paying attention to it. Però man mano che si presenta ripetutamente questo movimento ondeggiante del corpo, allora una persona comincia ad accorgersene, a mettere attenzione. one starts noticing that there are slight differences between the various, between one swaying movement and the next. Allora uno comincia a accorgersi che ci sono delle differenze tra un movimento di ondeggiamento e quello successivo. And that those certain swaying movements are segmented movements and not continuous movements. Per esempio che sono dei movimenti divisi in segmenti e non continui. And some of those swaying movements have many segments and others have very few segments. E alcuni di questi movimenti hanno molti segmenti, altri ne hanno di meno. And some swaying movements are rather forceful, painful, others are not. Alcuni sono un po' forzati, dolorosi, altri no. And some swaying movements occur in a gentle manner of their own accord. Alcuni avvengono in una maniera molto delicata e da soli, non indotti praticamente, and per conto loro. And what has been said about these various swaying movements, well, the same thing can be said for any other predominant object. E quello che abbiamo detto per questi movimenti ondeggianti del corpo può riferirsi a qualsiasi altro fenomeno, esperienza del corpo. Now, as a Vipassana or as a meditator in Satipatthana meditation, one at first might not quite know what to look for in one's observation. Allora, come meditante di Vipassana, una persona potrebbe non sapere cosa osservare, cosa cercare nella sua pratica, nella sua meditazione. Some meditators are sitting there and waiting for some enlightenment experience to descend on them. Alcuni meditanti si siedono lì e aspettano qualche esperienza illuminante che possa scendere su di loro. But it's not going to happen that way. Ma non succederà in questo modo. So, when we meditate, we need to observe the very ordinary and some categories, some descriptive and certain observational categories could be the following. Allora, dobbiamo osservare l'ordinario e quindi alcune categorie di descrizioni potrebbero essere le seguenti. Yeah. End of observation. Categorie di osservazione e di descrizione. Yeah. Right. So, when it comes to the observation of the rising and falling movement of the abdomen or any other predominant object, we might check how this object is doing in terms of hardness. Is there much hardness, or just a little bit of it, or is there the opposite, namely softness, and then how's the object behaving? Is it rather smooth, or is it rather rough in nature? Is it rather solid, or maybe not? Allora, quando si osserva l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome o qualsiasi altro fenomeno predominante, allora uno può chiedersi, può osservarlo dal punto di vista della qualità della durezza. Quindi c'è durezza o non c'è? O all'opposto, c'è morbidezza o non c'è la morbidezza? E la sensazione è morbida oppure c'è della tensione? È ruvida o è liscia? In certo modo. And then I lost the last thing you said. Solidity, solid. Ecco, è solida oppure no? Okay. And please know that in the course of the meditation practice, the way we experience a certain object may change tremendously. E notate che nel corso della nostra pratica meditativa il modo in cui noi abbiamo esperienza dell'oggetto può cambiare tantissimo. And so at first we may, we might find that an object like the rising and falling is rather hard or rather tense, and then much later on in the practice the same rising and falling may be extremely soft. Per esempio all'inizio della pratica possiamo notare che l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome è molto duro, molto teso. verso invece, cioè andando avanti con la pratica, ci accorgiamo che invece è molto morbido. And so another category for our observation and certain description of phenomena occurring in the meditation is that of related to temperature. And so how's the object doing in terms of temperature? Is there heat? Is there a burning sensation there? Is heat there? Is warmth there? Or is it cold or cool or chilly? And so on. Allora, un'altra categoria che può servire nell'osservazione dei fenomeni è la temperatura. Quindi c'è... è un, per esempio, una sensazione bruciante, c'è del calore, oppure c'è del freddo, c'è della freschezza, e no. No, that's right. And sometimes meditators say that they're experiencing maybe some heat, but with some ice cold sensation in the middle of it. Ad esempio, alcuni riferiscono di avere una sensazione di calore, ma con all'interno di questa sensazione anche dei punti molto freddi, gelati quasi. Of course it's not happening like this all the time. Naturalmente non succede sempre così. Yeah. And what might happen, just to give you an idea, there may be some warmth that is predominant in the rising movement, and there may be some cold sensation that is predominant in the falling movement of the abdomen. Per esempio, ci potrebbe essere, per farvi un esempio, del calore nell'alzarsi dell'addome, poi della freschezza nell'abbassarsi. Or it could be that one half of the body is more on the cold side and the other side is more on the warm side. Oppure potrebbe essere che metà del corpo è più verso il caldo, l'aspetto caldo, e l'altra metà del corpo invece più fresco. Now, another category for our observation and description is that of movements. And the opposite of movement is non-movement, namely stillness. Allora, un'altra categoria per l'osservazione e la descrizione dei fenomeni è il movimento. E il contrario del movimento è il non movimento, cioè l'essere fermi. And so when observing the rising and falling movement of the abdomen, one of the main elements there is movement. Nell'osservare l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome, uno degli elementi principali è proprio il movimento. And so this movement of the rising and falling may occur in many different ways, and as a meditator we need to know what happens. E questo movimento dell'alzarsi e abbassarsi dell'addome può avvenire in molti modi, e noi come meditanti dobbiamo sapere esattamente cosa succede. So, is it, for instance, a very quick rising and falling movement, or is it rather a slow movement, or is it maybe a somewhat hindered movement, labored movement, or smooth movement, easygoing movement? Allora, un movimento veloce, o è un movimento lento, è un movimento un po' frenato, o è un movimento invece rilassato o liscio? Right. And so when we think of the body, it can perform all sorts of movements in the course of the meditation practice. Quando pensiamo al corpo, il corpo può svolgere tutta una serie di movimenti durante la pratica meditativa. We may think that Satipatthana meditation is all about calmly sitting there. Noi potremmo pensare che la Satipatthana Vipassana sia questione di stare seduti, fermi e calmi. And without any movement whatsoever. Senza alcun movimento. But this is not the case. Ma non è questo il caso. At least not all the time. Almeno non sempre. So sometimes what might happen is while one is sitting there calmly, all of a sudden the arm makes a movement, and so a jerk, a jolt takes place. Allora, quello che può succedere è che mentre uno è seduto così fermo e calmo, può capitare per esempio uno scossone o un movimento brusco del corpo. Or, you know, sometimes it may even happen, you know, that you know, the entire trunk, you know, gets, you know, tossed off, you know, the cushion. O può capitare che l'intero tronco, si dice, busto del corpo venga sbalzato dal cuscino. No. Now, again, another category for our observation and description of formations is that of various experiences related to flowing, to trickling, oozing, and so on. Okay, wait. If I find the translation. Or just flowing. Allora, un'altra categoria riguarda il fluire, il trickling, quando una goccia va giù poco per volta, come si dice in italiano? Sgocciolare, va bene? Oozing è invece il movimento che fa un liquido quando esce, per esempio. È un liquido un po' spesso, quindi esce però in maniera molto lenta. In italiano non so come. Now, another topic, or another aspect, is the sitting posture itself. The Venerable Sarvasana, a disciple of Sarvasana Upandita, has remarked that sin, and he's a well-known meditation teacher in Burma, he has said, just by or simply observing how a meditator is sitting in meditation, one can already make an educated guess where this meditator's practice is at. Allora, un altro argomento è la postura, come uno si siede in meditazione. E il venerabile Usasana, che è un allievo del venerabile Upandita, diceva che semplicemente osservando come un meditante sta seduto in meditazione, uno può già farsi un'idea abbastanza accurata di a che punto sta questo meditante nella sua pratica. So, ideally the sitting posture will be an upright one. Idealmente la posizione seduta sarà una posizione dritta, retta. But even with regard to this, we find differences. Sometimes the posture may be upright and stiff, and at other times it may be upright and yet relaxed. Anche qui però ci sono le differenze. A volte potrebbe essere la postura potrebbe essere dritta ma rigida, altre volte può essere dritta ma rilassata. And then when sitting, it may happen that the body quite naturally slants towards one side and then even remains in that position for quite a while. Può capitare che nel sedersi il corpo penda in maniera naturale da un lato e che ci rimanga per un po'. And at one particular insight knowledge, this tends to happen. And the meditators are not even aware of it for quite some time. E in un particolare stadio degli insight, in un particolare insight, questo capita ai meditanti. Il meditante non ne è neanche consapevole. And then finally, when he or she finds out, the person will straighten the posture, and then continue to observe rising, falling, whatever else, and then the same thing happens all over again. Quando se ne accorge, allora si raddrizza, torna a osservare l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome, poi di nuovo capita la stessa cosa. Or what might happen is, even though one is trying very hard to keep the sitting posture upright, yet the body slouches over and over again. Oppure può capitare che nonostante un meditante cerchi di tenere la posizione dritta, il corpo continua a incurvarsi ripetutamente. And sometimes meditators say they feel as if the head is being turned in one direction. A volte i meditanti riferiscono che hanno l'impressione come se la testa girasse da un lato. So, the point here is, even a simple thing like the posture itself contains many details that are worth paying attention to. Quindi qui il punto è che anche semplicemente la posizione seduta contiene tanti piccoli dettagli che vale la pena di tenere in considerazione. Now, naturally, pains are an integral part of the Satipatthana practice, and so with regard to them too, it's worth paying close attention to what is happening and what kind of a pain is occurring. Allora, i dolori sono una parte integrante della meditazione di Satipatthana Vipassana e anche qui vale la pena di guardarli bene, osservarli bene, conoscerli e sapere quello che sta accadendo. And so we've got a whole range of different pains that might occur. Quindi abbiamo tutta una gamma di diversi dolori che possono accadere. So it could be a piercing pain. Quindi un dolore pungente. Or stabbing pain. O un dolore come fosse una pugnalata. Pugnalare. Or a shooting pain. O come tirare. Lanciare. Shoot è come se vi sparassero, insomma. And then, or it could be a throbbing pain. Oppure una pulsazione, un dolore pulsante. Sì. And then a burning pain, bruciante, or a tearing pain, o come uno strappo, sì, or a cutting pain, o come fosse un taglio, tagliente, and or it could be a pricking pain, una punzecchiatura, or it could be a pounding pain, oppure come un battere, un dolore come se qualcuno vi battesse, yeah, right. And then with regard to all of them, it's worth to pay attention to the intensity of the pain, and as discussed already at the outset of the retreat, its duration and location. Quindi è anche importante osservare l'intensità, la durata e la localizzazione del dolore, così come è stato spiegato all'inizio del ritiro. Now, when we sit for, let's say, 1 hour, an hour and a half, and then we'll come across a variety of experiences, predominant experiences. Allora, quando ci sediamo per un'ora, un'ora e mezza, allora avremo una serie, tutta una serie di esperienze predominanti. And so, there are certain points in the practice where it's really worth it to pay attention to the sequence of these predominant experiences or events. C'è una fase nella pratica dove è molto importante anche essere consapevoli della sequenza in cui appaiono queste esperienze, questi eventi. Now, the Venerable Sāropanita is very picky even when it comes to the interviews, and he wants meditators to report first on the rising and falling movement of the abdomen. Il Venerabile Upandita è molto attento a questo aspetto e lui proprio si aspetta che i meditanti riferiscano precisamente riguardo all'alzarsi e all'abbassarsi dell'addome. And when one does, at the very beginning of one's sit, pay attention to the rise and fall, well, it will present itself in a certain way, and this is a telling sign of where one's practice is at. Quindi se uno presta attenzione subito, appena si siede, all'alzarsi e all'abbassarsi dell'addome, allora questo è un segnale molto chiaro che indica a che punto è la sua pratica in quel momento. So, within one single sitting, one's meditation may undergo major changes, and a certain development might take place. So, let's say, starting out here, and then gradually reaching a peak, and then after that, dropping off again. Quindi, in una sola seduta può esserci possono esserci tutta una serie di esperienze e un evolversi della situazione. Quindi, uno può partire a un certo livello, poi può esserci una specie di curva verso l'alto, e poi di nuovo questa curva può ridiscendere e tornare al punto di partenza, a livello di partenza. And for somewhat more experienced meditators, it might happen that within one single sitting, one might go through several insight knowledges. So at that point, the sequence of events is very important. Allora, per alcuni meditanti più esperti può capitare che all'interno di una sola seduta ci possa essere l'esperienza di diverse conoscenze dell'insight. Allora, a quel punto è molto importante prestare attenzione alla sequenza. Now, at least two points in the meditation practice, pairs of opposites also play an important role. Allora, un altro ruolo importante nella pratica della meditazione sono le coppie di opposti. And so to give you a few pairs, namely heaviness of the body versus lightness of the body. Allora, per farvi qualche esempio, allora la pesantezza del corpo in contrasto alla leggerezza del corpo. Or hardness versus softness. O la durezza e la morbidezza. Or various kinds of movements of the body versus stillness of the body. Oppure vari movimenti del corpo contro la fermezza del corpo, si dice l'immobilità del corpo. And then heat versus cold. Caldo verso il freddo, caldo contro paragonato al freddo. And suddenly unwholesome mental states versus wholesome mental states. Gli stati mentali salutari e quelli non salutari a confronto. Sometimes these pair of opposites, pairs of opposites, occur within one single sitting, but more often will they occur over, let's say, a period of several sittings or sometimes even several days. A volte queste coppie di opposti si possono vedere, possono avvenire all'interno di una seduta, ma è più facile che accadano nell'arco di diverse sedute o addirittura di diversi giorni. And then when a meditator starts with intensive satipatthana practice and observes maybe realizes there's a pain, then the usual statement will be something like, well, there's some heart pain, and so the description will not go any further than this. Allora, quando uno intraprende la pratica intensiva di Satipatthana Vipassana, allora può accadere che nell'osservare un dolore, lui o lei dica, bene, questo è un dolore duro, ha la qualità della durezza, e non va oltre quel tipo di descrizione. And then with further development in one's meditation practice, one might soon find that hard pain isn't all that compact and unchanging as it seemed at first sight. Ma con il progredire della pratica uno potrebbe accorgersi che quel dolore non è così compatto e immutabile come sembrava all'inizio, a prima vista. And so, this hard pain then sooner or later is seen as breaking up into maybe smaller parts of hard pain, sometimes even is seen as breaking up into particles of hard pain. Allora, questo dolore duro a un certo punto sembra che si divida in tanti altri piccoli dolori duri o addirittura in particelle dure. And then when it comes to a predominant object, it's worth paying attention to its composition. So in the case of this hard pain, is it really hard throughout? Is it hard in the core, in its center, and is it also hard around? Or is it maybe that the core is softened, or the core is hardened, it's covered by softness? Allora, è anche utile prestare attenzione alla composizione, di cosa è composto questo dolore. Allora, per esempio, è duro dappertutto, in maniera completa e globale, oppure ha solo un centro duro e intorno piuttosto è morbido? And so, another very important category for our observation and description of new experiences is that of objects and time. Allora, un'altra categoria importante per l'osservazione e la descrizione delle nostre esperienze è quella degli oggetti e del tempo. And so, objects may be, let's say you have two, three different objects, and these objects may be overlapping, which means while one object is going on, let's say this is the first object here, starting here, ending there. So while this first object is still going on, now a second object arises, and so it's overlapping with the first to some extent, and then naturally the attention goes to the second object. While the second object is still going on, a third object arises. So allora, objects are overlapping. Allora, ipotizziamo che sorgono due o tre oggetti e in qualche modo si accavallino, nel senso che ne sorge uno, prima che questo primo oggetto sia scomparso dalla coscienza, ne arriva un altro che diventa l'oggetto predominante, allora si segue il secondo oggetto. Prima che il secondo oggetto finisca, ne sorge un terzo ancora. E quindi quello diventa l'oggetto predominante che attira l'attenzione. Now, another possibility is that objects are occurring in a linear fashion. So, in a sequential fashion, only after one object has disappeared does the next object arise. Only if that second object has disappeared does the third one arise. Oppure, so, one by one. L'esperienza può essere di un altro tipo, cioè questi oggetti seguono una sequenza, quindi sorge il primo oggetto, termina il primo oggetto e solo quando è finito allora sorge il secondo. E allo stesso modo quando il secondo è finito, si esaurisce, allora sorge il terzo. And then there's yet another possibility, and so this is by far not all. Namely certain synchronicity of objects in terms of time. Allora poi c'è ancora un'altra possibilità, e cioè una certa sincronicità degli oggetti in termini di tempo. So what might happen is that two objects are happening simultaneously, or that the observing mind and the object observed are well or are in sync. Allora può capitare che ci siano due oggetti che sorgono contemporaneamente, o detto in altro modo che un oggetto sorga e la mente che osserva l'oggetto praticamente sorge contemporaneamente, quindi sono come sincronizzati. And then still with regard to time, pay attention to the duration of an object. So how long is it around? Is it a long-lasting object that, like a pain that is present from the start of the sitting until the end or the finish of the sitting, or is it a pain that maybe lasts just a couple of minutes or just a few moments? Occorre anche prestare attenzione alla durata dell'oggetto, quanto l'oggetto è presente, quindi dura dall'inizio della seduta fino alla fine, per esempio, oppure dura solo qualche minuto, qualche istante. Then, as yet another possibility category of observation is an object really static in nature, or is it does it have a process character? Allora, un'altra categoria di osservazione è questa: l'oggetto è statico nella sua natura oppure ha un carattere di processo, come se fosse un processo, una natura di processo. No, no. When an object is static, it means it's not changing much, and so at least it seems that way. If it seems that way, then that's what one needs to observe. Quindi statico significa che non sembra che si muova, che si modifichi. Allora, se questo è così come appare l'oggetto, allora è così che occorre osservarlo. However, upon a deeper investigation, more penetrative investigation, one might find that an object that at first sight appears to be somewhat static, in the end turns out to be changing a lot. Ma con un'osservazione più attenta, un'attenzione più penetrante, uno potrebbe accorgersi che quell'oggetto apparentemente statico in realtà si modifica molto. And in the third, inside knowledge, a meditator might see how even within one single rising movement, so that is not so just a few seconds, even within one rising movement, already many changes might occur, several sensations might be noticed. So some tension might be there at first, and then the tension might turn into stiffness, and the stiffness might turn into hardness. Allora, nel terzo, nella terza conoscenza dell'insight, il meditante già si rende conto che nel solo movimento dell'alzarsi dell'addome ci sono molti cambiamenti e le sensazioni si trasformano. Quindi potrebbe esserci inizialmente per esempio una sensazione di morbidezza che poi si trasforma in tensione e poi questa tensione a sua volta diventa durezza. Then at times it may happen that one has to observe a great multitude of objects seemingly occurring at the same time, and then again at a different point in one's meditation practice there may be only very few objects of observation around. Allora può capitare che a un certo punto della propria pratica sembra che ci sia una moltitudine di oggetti da osservare, poi con l'andare del tempo uno si accorge che per esempio ce ne sono solo pochi oggetti che sorgono. So the category here is fewness of objects versus multitude of objects. Quindi qui la categoria è la moltitudine di oggetti e la pochezza, come si dice? Il numero ristretto di oggetti. Il contrario di moltitudine. And so this makes a big difference. In the 10th insight knowledge, meditators tend to experience plenty of objects occurring simultaneously, and then maybe a few days later the situation changes entirely, and so a meditator will be observing just a few main objects. Questo accade nel decimo insight, quando un meditante ha una moltitudine di oggetti da osservare, però di lì a poco si accorgerà che invece ne ha poi solo pochi, cioè da tanti diventano pochi. And so, and then, there are three party technical terms which are helpful in the context of our topic, namely sabhava lakana, sankata lakana and samanya lakana. Allora, ci sono tre termini tecnici in pali che sono utili per il nostro argomento. Okay. Adesso me li ripeto. Sabhava lakana, sankata lakana and samanya. And the first one is the specific characteristic of an object. Quindi la prima è la caratteristica specifica dell'oggetto. I just wanted to repeat it. Sabhava lakana. Lakana means characteristic. Quindi lakana significa caratteristica. Quindi il primo è la caratteristica specifica dell'oggetto. Sì. And the second one in Pali is known as sankata lakana, which translates as the condition characteristic, and this refers to the fact that every object has a beginning, a middle and an end. Quindi il secondo, sakata lakana, si riferisce alla condizione dell'oggetto e questo significa che ogni oggetto ha un inizio, una metà e una fine. And the third technical term is samanya lakana, which means universal characteristic of an object. Il terzo è samanya lakana, e questo significa le caratteristiche universali dell'oggetto. Now, this is said with reference to the impermanence of all conditioned formations, with reference to the unsatisfactoriness of all conditioned formations, and the fact that they also lack a self. A questo si riferisce alla impermanenza di tutti i fenomeni condizionati, alla loro insoddisfazione e alla loro mancanza di un sé. Sì. And when a meditator, let's say a beginning meditator, starts his or her retreat, the person is most likely not going to see, the three universal characteristics right away. Allora, un meditante all'inizio del suo ritiro è facile che non riesca già da subito a vedere queste tre caratteristiche. But rather, the meditator will start experiencing and seeing, observing the specific characteristics of objects. Ma piuttosto un meditante comincerà con l'osservare le caratteristiche specifiche dell'oggetto. So, for instance, in the rising movement of the abdomen, a specific characteristic could be the tension or the expansion of the abdomen. Allora, per esempio, nell'osservazione dell'addome, allora uno potrebbe osservare la tensione o l'espansione dell'addome. And so, then in the case of the fawning movement, the specific sensation could be a release of tension and a contraction of the abdomen. O nell'abbassare, allora la caratteristica specifica potrebbe essere un rilascio della tensione o un rilassamento dell'addome. Or if you have two pains, and then one might realize, oh, the first pain is a throbbing pain, and the second pain is a stinging pain. Allora, nel caso di due dolori, allora uno potrebbe dire il primo è un dolore pulsante e il secondo è un dolore più penetrante. So for the first number of days of a retreat, a meditator needs to develop this skill of clearly seeing the specific characteristics of every predominant object. Quindi nei primi giorni di un ritiro il meditante deve aver cura, insomma, di notare queste caratteristiche specifiche di tutti gli oggetti predominanti. And then as the practice moves on, gradually a meditator will see all three parts of an object, namely its beginning, its middle, its end. Poi man mano che va avanti con la pratica, allora riuscirà a vedere le tre parti dell'oggetto, ovvero il suo inizio, la sua parte mediana e la sua fine. And whereas at the beginning of the retreat, usually it doesn't happen like this yet. E invece all'inizio di un ritiro di solito non succede in questo modo. And then only does one see universal characteristics of formations. E solo allora poi uno vedrà le caratteristiche universali di tutte le formazioni. And then one understands that every object, predominant object observed, shares a particular characteristic, is seen in the same light, maybe as undergoing change. Allora poi vedrà che ogni oggetto predominante, ogni fenomeno condivide la stessa caratteristica. Per esempio che esiste del cambiamento. So they share, can you just repeat this concept? They share the same characteristic, the impermanence of formations. Sì, quindi condividono la stessa caratteristica, per esempio questa impermanenza delle formazioni. Now, some meditators, when they come for interview, like to give very general reports. And they might say things like, all my objects are painful. Allora, alcuni meditanti vengono al colloquio per riferire le esperienze e fanno un resoconto molto generale. Per esempio dicono tutti i miei oggetti sono dolorosi. And these kind of statements are just far too general, and so this is not working. E queste affermazioni sono assolutamente troppo generali e così non funziona. And when we undertake our practice, or when we do the Satipatthana meditation, then we need to train in observing the objects really carefully, one by one, and describing them in a very specific way and not in a generalized way. Quindi noi quando intraprendiamo questa pratica dobbiamo addestrarci a osservare e a descrivere l'oggetto uno per uno e nei suoi dettagli più specifici, quindi descriverlo in maniera più dettagliata. So if a meditator can describe several objects in a really detailed and specific way, and then based on this comes to some general conclusion, then this is okay. But if a meditator just then comes and presents generalities, and so then when asked, could you give one example? Then the person has says, oh, sorry. Then something is missing. Allora, se un meditante viene al colloquio e riesce a spiegare in maniera dettagliata e specifica una serie di oggetti e poi in conclusione può trarre delle conclusioni generali, delle considerazioni generali, allora va bene. Però se già in partenza parte con un'affermazione molto generale e quando l'insegnante gli chiede di fare qualche esempio più specifico non ci riesce, allora così non va bene. And some people are also hiding their experiences behind these general descriptions. A volte le persone tendono a nascondere le loro esperienze dietro queste descrizioni così generali. Now, predominance of objects is another helpful category. Or we might say the frequency with which objects occur. So if an object, like the swaying movement at the outset of the talk, if this occurs over and over again, then it's something that we need to pay attention to. Because it's predominant, because it's frequent. Quindi la predominanza o la frequenza di un oggetto che sorge è anche un'altra categoria da tenere presente. Per esempio, questo movimento ondeggiante di cui parlavamo all'inizio, se questo si ripete più volte, allora questa è un'indicazione che va considerato, va preso in esame. Or, to give you a different example, let's say for quite a while you notice that the mind is reacting strongly towards formations, towards certain desirable as well as undesirable formations. Allora, per fare un altro esempio, poi vi accorgete che la mente sta reagendo in maniera molto forte riguardo alle formazioni, che se siano spiacevoli o piacevoli. And then your practice shifts, and you notice that the mind is less reactive, actually it's becoming non-reactive, and the non-reactivity of these non-reactive reactions or occurrences are becoming more and more frequent. This is a new development in your practice. This means the non-reactivity is now a predominant experience, and then pay attention to it. Allora, poi vi accorgete con l'andare del tempo che riguardo agli oggetti la mente diventa invece non reattiva, e questo indica uno spostamento, un cambiamento, uno sviluppo nella vostra pratica, ed è una cosa da riferire all'insegnante, quindi una cosa a cui prestare attenzione. So if at times you don't quite know which object to observe because there are so many different objects, then go by the principle of predominance. Quindi a volte, quando non sapete quale oggetto osservare perché ce ne sono tanti, allora seguite questo criterio della predominanza, cioè quello più in vista. Diciamo. Ok, we've got a few more other categories. Now, density of an object is also interesting. And so, as mentioned earlier on, at first an object might appear as rather solid. Later on, it might turn into, or it might become fluffy, even airy, even gaseous, like a cloud. Allora, un'altra categoria interessante è quella della densità. Come abbiamo detto prima, un oggetto inizialmente può apparire solido. Poi con l'osservazione si vede che in realtà è morbido, è soffice, può essere pieno d'aria, come fosse una nuvola. Right. And then the continuity or lack of continuity of formations is another category that we could pay attention to. So it's not just the continuity of our mindfulness that matters, but also the continuity of our effort and the continuity of our labeling. Is it really continuous or not? And then the continuity of our practice. Allora, anche la continuità dell'osservazione è un'altra categoria da tenere presente. Quindi non è solo la continuità nella consapevolezza, ma anche la continuità dello sforzo, la continuità della etichettatura, and the fourth, I forgot, the labeling. Labeling, or the practice itself. Oh, la continuità nella pratica stessa. So sometimes meditators, or sometimes one gets into a kind of on and off practice. So practicing seriously for an hour or two, and then slacking off, and then remembering to make effort again. Con questo si intende il fatto che spesso la pratica è molto alterna, quindi uno comincia a praticare bene per un certo periodo, poi rallenta o smette, poi riprende e va avanti così in maniera molto altalenante. And then another next point. We're making a big effort to observe objects clearly, and gradually as our mindfulness, concentration, and wisdom improves, we tend to see objects in a more clear-cut manner. And when this happens, then of course we're overjoyed. Finally we can see objects really in a clear-cut way. Allora, un altro punto è questo, che noi cerchiamo, mettiamo un certo sforzo per cercare di vedere chiaramente gli oggetti, poi man mano che si sviluppa la nostra consapevolezza, la nostra concentrazione, la nostra saggezza, noi effettivamente riusciamo ad avere una maggior chiarezza nell'osservazione, e questo ci procura una grande gioia. Finalmente riusciamo a vedere bene questi oggetti. And then we assume that this clarity will last. E poi presupponiamo, cioè contiamo sul fatto che questa chiarezza durerà. What a mistake. Che errore. Because it's not going to last, and it might turn into unclarity. Perché non durerà e potrebbe trasformarsi invece in non chiarezza. And so there is a certain point in the meditation practice when indeed, despite of the greatest effort made, objects are no longer clearly seen. C'è un certo punto nella pratica in cui, nonostante tutto lo sforzo che uno possa mettere, gli oggetti non sono chiaramente osservati. And when it happens like this, one simply just needs to accept and to observe accordingly. Quando capita ciò, non resta altro da fare che non accettare e procedere di conseguenza. Now, another point is the shape or form of the body as a whole. Its contour, its outline, is it clear or is it not clear? So you're sitting there with eyes closed, and then do you have a clear cut sense of the outline of your body? Allora, un altro punto è la sensazione del corpo nel suo insieme, o meglio i confini del corpo. E avete un'esperienza chiara del corpo e dei suoi confini, appunto. And so this too, in the course of the meditation practice, may change. Anche questo potrebbe cambiare nel corso della pratica. And so then it might happen that maybe our right arm, even though right arm and right hand, even though it's placed in front, it seems as if it is warped, as if twisted and turned backwards. Allora, per esempio, noi possiamo avere l'impressione che nonostante la nostra mano sia appoggiata davanti, ci sembra che sia girata, storta, diciamo, e messa dietro la schiena. Or sometimes it may seem, well, at the beginning of the sitting we put both arms there, and then when good concentration is there, it seems like the right arm is cut off. Allora, un altro esempio è che ci sediamo, mettiamo le braccia davanti e quando poi la concentrazione diventa molto forte, si approfondisce, abbiamo l'impressione che un braccio non ci sia più. But, of course, don't worry, the arm in reality is not cut off, it just seems that way. Non vi preoccupate, in realtà il vostro braccio non è che venga tagliato o che manchi, vi sembra semplicemente che non ci sia. No, so what has been said for the body as a whole might then also be explored with regard to one particular object, such as the pain. Does the pain have a form or not? What about the rising falling of your abdomen? Does it go along with a certain form or shape or not? Quello che è stato detto riguardo alla forma del corpo può applicarsi anche ad altri oggetti, altri fenomeni, per esempio un dolore o l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome. Allora, un dolore ha una certa forma oppure no? E anche l'addome ha una sua forma oppure no? And so, and then please do pay attention to the operational speed of the mind, of the observing mind. How quick or how slow is your mind? And so great changes can occur in this regard. Un'altra cosa a cui fare attenzione è la velocità operativa della mente. Quanto è veloce la mente nell'osservare l'oggetto? Anche questa è una cosa che può cambiare con il procedere della pratica. Now, when we start out, usually our observing mind is somewhat slow, and then gradually, with continued practice and sharpening of the mind, well, it also then becomes somewhat faster. All'inizio della pratica la nostra mente è abbastanza lenta nell'osservazione, ma poi man mano che si addestra, insomma si fa pratica, e man mano che si affila la capacità della mente, allora diventa molto più veloce nell'osservare. And, then you could also pay attention to the speed with which objects come and go. Is this happening slowly or is this happening very quickly? Allora, un'altra cosa è la velocità in cui appaiono gli oggetti che sono osservati. Quindi sorgono molto velocemente oppure più lentamente? Or when it comes to the dissolution of objects, this dissolution may undergo changes. At first it might take place slowly, and later on it might happen extremely quickly. Nella fase di dissoluzione dell'oggetto, anche questa esperienza può variare. Allora, l'oggetto inizialmente, questa dissoluzione sarà più lenta, poi si può, può invece avvenire in maniera molto veloce. And so then you could also pay attention to the degree of entanglement of the observing mind with the object observed. Un'altra cosa che si può notare è il grado di quanto la mente osservante è attaccata, è coinvolta nell'oggetto, quanto è unita con l'oggetto, attorcigliata sarebbe. Is the mind, is the observing mind, fully involved in what is going on, or is it keeping a certain distance from what is happening? Quindi la mente è completamente coinvolta e presente, diciamo, vicina a ciò che accade, oppure è un po' distante da quello che sta accadendo? And then maybe as a last category, check whether your objects are rather on the coarse side or on the refined side. And what about the observing mind itself? Is it rather coarse or is it rather refined? E come ultima categoria possiamo indicare l'osservazione della grossolanità, cioè se un oggetto è grossolano o sottile, e anche la mente che osserva è grossolana o è sottile, raffinata. So, maybe this much, let me conclude today's Dhamma talk on Vipassana phenomenology by wishing may all of you being now well equipped with different descriptive observational and descriptive categories, may you gain more and more and more understanding into the true nature of phenomena, and without making use of any concepts or theories, and then eventually may you see the ultimate reality of everything, and this is it. Allora. Allora, venerabile conclude questo discorso sulla fenomenologia della Vipassana, augurando a tutti noi che ben equipaggiati con questi modi di osservare e descrivere i fenomeni, che noi possiamo progredire e vedere sempre meglio using these categories, utilizzare queste categorie, possiamo guadagnare in And then gain ultimate reality. So equipped with all of these descriptions, descriptions. May we gain a deeper and deeper understanding into the true nature of formations. Guadagnare profonda conoscenza nella natura dei fenomeni, e attraverso questa conoscenza più profonda possiamo vedere la realtà ultima del Nirvana. She has a question. Yeah. Ok, Luciana, please, let's hear. Ecco, volevo dire che nelle scienze umane questa fenomenologia prima c'è un assunto da verificare o da contestare. Allora, l'osservazione parte da qualcosa di già stabilito. So in human sciences you always start with an assumption that has to be either denied or proved in a certain way. So you always have something to start with, this assumption. Ecco, e quando c'è un cambiamento di paradigma è perché durante questa osservazione c'è qualcosa che non è stato previsto. So if there's a change in this paradigm, in this assumption, it's because through observation something comes up that hasn't been predicted. Invece nella vipassana si fa zero di partenza. Instead, in vipassana meditation, you start off with zero, with nothing. Yes. There's no assumption. Yes. You throw all these assumptions overboard. È proprio così. Cioè, tutti questi presupposti tu li butti in mare. Differenza sostanziale. Yes. This is a substantial difference between. The vipassana, observation in vipassana meditation is like an ongoing surprise. Quindi l'osservazione nella vipassana è come una sorpresa in via di svolgimento, diciamo, che continua a ripetersi. You know, let's say today you see your predominant objects in a certain way, and already tomorrow you might be seeing them already in a quite different way. Quindi, per esempio, oggi tu vedi il tuo oggetto predominante in un certo modo, domani potresti vederlo in un modo completamente diverso. The Buddha's point was. Yeah, to keep the mind as unburdened as possible, you know, without any theory, without any assumptions, and free from concepts, and just seeing what is there. Just, and there's an expression for this, yata buddha jnana dasana, to see reality according to reality, or to see things according to reality. Sì, quindi il punto del Buddha era proprio quello di liberare la mente, quindi non appesantire la mente con teorie, supposizioni, concetti, eccetera. E c'è questa espressione che lui ha detto in Pali, che vuol dire vedere le cose così come sono in base alla realtà. And so the Buddha's approach is a very powerful approach. Quindi l'approccio del Buddha è molto potente. And this approach was developed already over 2500 years ago. Un approccio che è stato sviluppato più di 2500 anni fa. No, and just think of the Abhidhamma, no? All the teachings on the nature of the mind, on the different mental states, the qualities or characteristics of the mental states. It's just amazing how well observed all of this is. Quindi pensa solo all'Abhidhamma, quindi all'analisi della mente, degli stati, della natura della mente, gli stati mentali, le qualità di tutti questi stati mentali. È incredibile come tutto questo sia già stato così dettagliatamente descritto. No, in the material that I found on this phenomenology, it says that Husserl and Sartre, they agreed that consciousness always has an object or takes in an object. This the Buddha saw already over 2500 years ago. Quindi nel materiale che ha trovato rispetto alla fenomenologia, allora Husserl e Sartre entrambi concordavano nel dire che c'è la coscienza che ha un oggetto, che prende un oggetto. E questo Buddha l'aveva già detto 2500 anni fa. Yes. Okay. Any other comments or questions? Sono altri commenti, altre domande? Yeah, Jim, you have anything? I have a couple of comments. One, I was taught actually a long time ago by the Venerable Ananda Bodhi, is the first line of the first verse of the Dhammapada, which he translated as "mind is the forerunner." Mm. And to me, that has always been that when I look, before I see something, the mind has already arrived at the object and labeled it, because I'm too slow in my seeing. And that What I'm doing in my observing is looking at my mental constructs. Until the speed of my observations can, or my perception can get fast enough, that I can break through and see reality, not the constructs of my mind. That, to me, is what I've always thought of as the experience of enlightenment. That I'm actually breaking through this web of mental constructs and seeing things in themselves, reality for itself. And that is what I think that line in the Dhammapada is trying to tell us. That as we ordinarily are, we are only observing our own mental constructs. Uh-huh. We don't see like a small infant, like a small child. Jim menziona il primo verso del Dhammapada, no? Che dice che la mente è il precursore dell'esperienza. Allora, da una sua interpretazione di questo primo versetto del Dhammapada, dice che lui l'ha sempre inteso come la mente che arriva all'oggetto un po' prima di quanto io lo veda, questo oggetto. In realtà l'esperienza che io ho dell'oggetto è solo il riflesso della mia costruzione mentale, concettuale di quell'oggetto. Quindi con l'andare della pratica, il progredire della pratica, con l'addestramento, quello che succede è che la mente diventa sempre più veloce e riesce a cogliere l'oggetto senza fare ricorso a tutte queste costruzioni concettuali che invece la mente ordinaria utilizza. E quindi lui interpreta così questo primo versetto del Dhammapada. Ecco, e secondo lui l'esperienza dell'illuminazione è proprio questo, il rompere praticamente con questa specie di barriera concettuale e arrivare a fare esperienza dell'oggetto o del fenomeno in maniera diretta, esperienziale. Spero di aver detto tutto. This is already long, pretty long. So the first part, yes indeed, we need to cut through these mental constructs, see objects as they are occurring. And in accordance with the Buddha's instruction to Bahia, in the seeing there should be just the seeing, in the hearing there should be just the bare hearing, and so on and so forth. No? So without all the other things. Quindi è vero, dobbiamo rompere questi costrutti mentali, diciamo, e vedere le cose così come realmente sono. Così come il consiglio che ha dato Buddha a Bahia, quando c'è il vedere, c'è solo il vedere, quando c'è l'udire, c'è solo l'udire, e via di seguito. Bahia received this in a short instruction from the Buddha, and he used it, he contemplated on it, and certainly gained arahantship in this way. Bahia ha contemplato queste istruzioni molto brevi del Buddha e grazie ad esse ha raggiunto lo stato di arahant in breve tempo. Now, your next comment. Well, it's just something that I read in the Venerable Hanalayo's book on the Satipatthana Sutta, and that is that the Buddha revived the Satipatthana practice, that it actually was far older than the Buddha, and that it had fallen into disuse. It was not being used. It had been lost and forgotten. And this is in a footnote near the beginning of the book by the Venerable Analeo. And what he says is that the insights that he brought with his expounding of the Satipatthana Sutta were so wonderful that some great god came down and thanked him for giving these insights. This is the story. I just wanted to make that comment from his book. Allora, Jim si riferisce a un libro di Anna Lyall sul Satipatthana Sutta, in cui si dice nella prefazione che in realtà il Buddha ha semplicemente ha scoperto, rivelato, sì, degli insegnamenti precedenti, quindi che la meditazione di Satipatthana Vipassana era già precedente alla vita del Buddha. È che lui comunque grazie ai suoi insights l'ha ovviamente divulgata, e una divinità poi sia andato dal Buddha per ringraziarlo di questo suo intervento, insomma di questa sua opera di divulgazione di un insegnamento già precedente, diciamo. Shall we leave it with this? For now. Okay, then the metta chanting. Va bene, allora chiudiamo qui, facciamo il canto di metta.